Forse domani o forse questa sera, ancor sul tuo cammino di fronte a te mi troverò. Il mio destino sarà nelle tue mani, un gesto, una parola, per il mio cuore basterà. Non sono nulla per te, il tuo cuore non avrò, ma nulla chiedo per me, in silenzio t'amerò. Forse domani o forse questa sera, son qui sul tuo cammino, se passerai ti seguirò. Passerai, ti seguirò. Se passerai, ti seguirò.